Fatte senza senso, io non credo a falsi dei. C'è chi vuole controllare la mia mente, non potrà. Sottostare non fa parte del mio essere, lo sai. Non sperare segua, non ti ha scritto il nome tuo. Io non sono un burattino che puoi muovere come vuoi. Questo strano mondo parte non sarà di me. Basta credere in qualcosa che ascolta.